Okay, the situation, there are still earthquakes, by the way. There was a strong one of magnitude 5.0, like an hour ago, or like 40 minutes ago, and the most severe damages are in... La terra in Albania sta continuando a tremare. Ci sono scosse che sono superiori ad una magnitudo di 5.0, come è successo 40 minuti fa e un'ora fa. I danni più gravi si sono registrati nella città di Durazzo e nel circondario, ma ci sono problemi anche a Tirana e in altre città dell'Albania. Fino a questo momento sono morte 40 persone e centinaia di altre sono rimaste ferite, ma i soccorritori stanno ancora cercando persone sotto le macerie. Solo 5 minuti fa è arrivata la notizia che hanno trovato una famiglia di 4 persone morte sotto le macerie. You know, I mean the government has declared a state of emergency right now. You know, everything. Ci troviamo in uno stato di insicurezza. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza. Fino ad ora ogni attività si è fermata. Oggi ricorre anche la festa albanese dell'indipendenza. Solitamente le istituzioni organizzano delle celebrazioni, ma vista la situazione, tutto è stato cancellato. Però stanno arrivando anche un sacco di aiuti dall'esterno, dall'Italia, dalla Grecia, ma anche dalla regione dei Balcani, dalla Bosnia, dalla Serbia, dal Kosovo. Anche l'Unione Europea sta mandando aiuti. Hanno mandato anche squadre di specialisti ed esperti per trovare persone sotto le macerie. C'è anche una mobilitazione civile. Io sono un'attivista politica e faccio parte di un'organizzazione studentesca che si chiama Organizzata Politiche. Anche il nostro movimento sta aiutando. Stiamo lanciando progetti di crowdfunding dove le persone che vogliono possono versare soldi. In questo modo possiamo aiutare le persone che sono ancora fuori di casa. Can send money so that you know we can help the people who are still outside and who are left, you know, without a home for the moment. Dopo il terremoto qualcuno ha sollevato il problema della troppa urbanizzazione, della troppa cementificazione. È un problema sentito in Albania. Yeah, there is a problem, you know, with this new building. Some of the buildings who have been completely destroyed, they are new. Sì, ci sono dei problemi con le nuove costruzioni. Alcuni degli edifici che sono andati completamente distrutti erano nuovi. Ad esempio è successo ad un hotel a Durazzo che era completamente nuovo. La maggior parte degli edifici danneggiati era nuova. C'è stato un problema con le costruzioni, però va anche ricordato che il terremoto è stato molto molto forte ed è il motivo per cui la maggior parte degli edifici è danneggiata. Il problema non ha riguardato solo i nuovi edifici ma anche quelli vecchi. Io vivo in un vecchio edificio che è molto robusto, ma anch'esso ha subito danni dal terremoto. E questo è successo in tutta la regione. Nella parte orientale dell'Albania, in modo particolare a Durazzo, Tirana, Kruja, ma ieri c'è stato un terremoto, anche se non fortissimo, a Kukos e due giorni fa c'è stato un terremoto in Bosnia. Tutta questa regione è coinvolta. Qual è la situazione economica dell'Albania? Il terremoto porterà conseguenze sul bilancio del paese? Albania è un poor country, as we know. L'Albania, come sappiamo, è un paese povero e non può riuscire a sostenere da sola, a fronteggiare da sola fenomeni tragici di questa portata, oltretutto che continuano per alcuni giorni. Sicuramente l'economia subirà delle conseguenze, sicuramente, però come ho detto prima ci sono tanti aiuti che stanno arrivando da fuori, dall'esterno del paese, come l'Unione Europea e i suoi stati membri, i paesi che sono nostri vicini si stanno mobilitando. Anche alcune aziende private stanno provvedendo a dare assistenza gratuitamente. Some of the businesses actually are providing assistance by free.